perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Lo scontro frontale tra due treni in Baviera, le vittime sono 9, di cui ci sono decine di feriti, di cui alcuni in condizioni gravissime. La Farnesina verifica l'eventuale presenza di italiani. Borse molto volatili, già 3 cambi di rotta nell'arco della mattinata, ora Milano perde l'1,5%, pesano le vendite degli hedge fund e le preoccupazioni per il rischio di una nuova recessione. Rifugiati, la Turchia promette non chiuderemo le porte, ma la frontiera è ancora sbarrata con 70.000 persone in fuga dai combattimenti che premono. Intanto a Damasco un attentato uccide almeno 8 persone. Annullato il licenziamento. L'autista Atak, che si dava malato e andava a cantare canzoni di Califano nei locali, reintegrato dal giudice. Sanremo inizia questa sera il festival, si apre con un omaggio a tutti i vincitori e con la polemica per la presenza di Elton John alla vigilia del voto sulle unioni civili. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti in apertura come sempre, il 349-238-6666 per i vostri sms, così come per i messaggi su WhatsApp, effettogiorno@radio24.it per scriverci. In apertura dunque andiamo a parlare della cronaca dall'estero, in particolare dalla Baviera, dalla Germania, dove questa mattina c'è stato uno scontro frontale tra due treni. Vediamo di fare il punto di quel che sappiamo al momento con la nostra Adriana Fracchia. Adriana, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Come dicevi tu, sono ora 9 le vittime dell'incidente ferroviario, un bilancio ancora provvisorio, un incidente che è avvenuto stamani in Alta Baviera. Le vittime potrebbero aumentare perché almeno un centinaio di persone sono rimaste ferite e di queste una cinquantina sarebbero in gravi condizioni. Due invece sono al momento i dispersi. C'erano molti pendolari diretti come ogni giorno al lavoro a Monaco a bordo dei due treni. Per fortuna non c'erano studenti perché in questi giorni sono a casa per le vacanze di Carnevale. Si tratta di due treni regionali della Meridian che si sono scontrati stamani intorno alle 7 appunto in Alta Baviera, uno scontro frontale su un tratto a binario unico a circa 60 km a sud-est di Monaco in una zona di difficile accesso in mezzo ad una piccola foresta. Interrotti al momento tutti i collegamenti ferroviari della zona, la Meridian ha pubblicato un numero d'emergenza per essere contattate per avere notizie sulle persone coinvolte nell'incidente, mentre gli inquirenti indagano sulle cause. La Farnesina ha fatto sapere di essere in contatto col Consolato Generale a Monaco di Baviera, che sta lavorando in raccordo con le autorità per verificare la presenza di connazionali a bordo dei due treni, e ricordiamo che si tratta dell'incidente ferroviario più grave che la Baviera ricordi dal 1975. Ed è tutto. Grazie Adriana Fracchia. Tra l'altro sta iniziando in questi minuti una conferenza stampa a Berlino, crediamo del Ministero dell'Interno, non abbiamo ancora dettagli ulteriori. Tra poco, più avanti nel corso della trasmissione, ci collegheremo proprio con Berlino per avere qualche dettaglio in più e cercare di capire se è emerso qualcosa appunto dal punto di vista delle cause. Siamo alla situazione dei mercati, oggi è una giornata veramente di grandissima volatilità, come già vi dicevamo nei titoli, abbiamo contato almeno 3 cambi di rotta nell'arco della mattinata. Facciamo un punto con Deborah Rosciani. Deborah, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, dopo il nuovo crollo di ieri, questa mattina le borse europee tentavano con molta prudenza di rimbalzare. Milano in avvio guadagnava poco più di mezzo punto percentuale. Poi nel giro di pochi minuti la direzione è cambiata. Piazza Affari è arrivata a perdere più di 3 punti per poi risalire, tenere a fatica la parità, rimbalzare di nuovo, arrivare a guadagnare un punto percentuale. Adesso lo riperde di nuovo ed è un calo, quello che registra in questo momento, dell'1,38%. Le fanno comunque buona compagnia anche gli altri listini continentali, perché abbiamo Parigi in ribasso dell'1,12%, Francoforte perde oltre mezzo punto percentuale, argina le perdite, Londra comunque in negativo meno 0,3%. Fra l'altro di tutta questa situazione ne sta approfittando l'euro, che sul dollaro continua a recuperare terreno, siamo a 1,1224 in questo momento. I temi di questi cali sono sempre gli stessi, sono quelli ricorrenti di questi giorni, solo che li analizzerai tra poco. Per fare un punto della situazione sui titoli che perdono di più a Piazza Affari questa mattina, ci sono ancora tutti i titoli bancari, con Banca Mediolanum in prima fila a perdere il 4,76%, peraltro ieri ha perso l'8%, stamattina recuperava il 5% per poi riperdere tutto quanto, per cui proprio sull'otto volante anche i titoli generalmente un pochino più stabili degli altri. Ferrari meno 4,46%, è stato fatto un calcolo che dal giorno della quotazione il 4 gennaio a Piazza Affari il gruppo ha perso quasi 30 punti percentuali. Male Tots meno 4%, CNH Industrial meno 4% e poi i titoli delle banche popolari che dovrebbero andare a nozze a breve. Si salva Telecom più 2,20, il gruppo presenta a giorni il nuovo piano industriale, Luxottica in rialzo di un punto, Campari più 0,4. Lo spread fra BTP e Bund, che stamattina ha aperto di nuovo a ridosso dei 150 punti base, adesso è intorno ai 145. Simone, per il momento è tutto. Ti ringrazio, grazie alla nostra Deborah Rosciani, che già anticipava il fatto che in questa puntata cercheremo anche di scandagliare un po' le motivazioni di tutti questi cali di borsa di questi giorni. Allora, iniziamo subito, lo facciamo con la nostra Livia Zancaner. Insomma, abbiamo interpellato un po' di trader e anche di economisti per cercare di capirne di più. Il petrolio ai minimi, considerato fino a pochi mesi fa un fattore positivo, ora diventa negativo. I paesi produttori, come l'Arabia Saudita, soffrono e per limitare i danni vendono quello che hanno in portafoglio, compreso l'azionario italiano. Anche la Cina, che crescerà meno delle attese, vende, così come la Russia. Poi ci sono le solite pressioni sulle banche, infine la Grecia e l'America che spaventano un po'. Tutto vero, ci raccontano i trader che operano tutti i giorni sui mercati, ma con una differenza. A gennaio le vendite erano motivate, poi è partito l'attacco sistemico all'Italia. Quello che succede ovviamente è che assieme a queste vendite vere si sono innescate l'apertura di posizioni short da parte di diversi hedge fund americani, i quali hanno appunto posizionato i loro short su Generali, su Unicredit e su altri titoli del nostro settore, creando questa fase speculativa che ci riguarda. Così ci spiega Biagio Milano, trader che dal 2013 opera da Malta, e visto che i fondi comuni hanno alleggerito le posizioni, il mercato è diventato preda degli hedge. In più, aggiunge Gregorio De Felice, capo economista di Intesa San Paolo, scattano gli obblighi a vendere. Questi operatori hanno spesso dei limiti alle perdite che vengono consentite dai dipartimenti di gestione del rischio. Quando questi limiti di perdita scattano, in gergo tecnico si chiamano stop loss, c'è sostanzialmente un obbligo interno a vendere, provocando altre vendite e così via. Piazza Affari dai massimi di luglio ha ceduto oltre il 30%, il 24% solo da gennaio, mentre le banche in due mesi hanno perso tra il 30 e il 50%. Il consiglio dunque per i risparmiatori è diversificare il portafoglio e sugli investimenti di breve termine essere pronti a uscire. La volatilità durerà per tutto l'anno. Livia Zancaner, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche di questo torneremo a parlare più avanti. Nel frattempo si parlava di banche. Beh, a proposito di banche, c'è il comunicato stampa, o meglio la lettera inviata questa mattina dall'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, al presidente della Consob, l'autorità che ha il controllo sui mercati e sulla borsa. Il presidente è Giuseppe Vegas. È una lettera nella quale l'ABI si dice convinta che occorre un'urgente semplificazione dei prospetti informativi relativi alla compravendita dei prodotti finanziari, fino ad arrivare a moduli di colori diversi per ogni tipo di investimento. Questa lettera è indirizzata a Vegas in vista della prossima riunione dell'esecutivo dell'associazione bancaria, che è convocata per il 17 febbraio e alla quale parteciperà appunto lo stesso Vegas. Vedremo come andrà a finire da questo lato dei prospetti informativi. Veniamo alla cronaca italiana, ora con la maxi operazione contro la camorra a Roma. Un business illegale stimato in 15,4 miliardi. Dal settore caseario a quello ortofrutticolo, la criminalità organizzata investe in maniera massiccia nell'agroalimentare. E quanto fa notare la Coldiretti, commentando il blitz della polizia e della Guardia di Finanza, che ha sgominato un'organizzazione criminale collegata ad un clan camorristico operante a Roma nel settore proprio ortofrutticolo e caseario. A finire in manette esponenti di vertice, affiliati e prestanomi del clan Moccia. 7 le ordinanze di custodia cautelare. Nei confronti di queste persone è scattato anche il sequestro di beni per un valore di circa 1 milione. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. All'indomani dei due nuovi naufragi al largo della Turchia, con 11 bambini che hanno perso la vita, il paese si prepara, o almeno annuncia, che non chiuderà le porte ai rifugiati, mentre nei luoghi dai quali fuggono, in particolare la Siria, arrivano nuove notizie di violenze. Oggi un'autobomba a Damasco, il servizio. Ancora terrorismo in Siria, questa volta colpita al cuore Damasco, e l'emorragia di rifugiati siriani non si ferma e si concentra sulle frontiere turche. Un'autobomba esplosa oggi in un quartiere residenziale di Damasco, vicino a un mercato di frutta e verdure, provocando morti e feriti. Secondo l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, l'esplosione ha colpito il garage di un club di ufficiali di polizia. Turchia e Germania sono i due paesi che portano il peso più grande della crisi dei rifugiati siriani, ha sottolineato il premier di Ankara, Davutoglu. Ha sottolineato che circa 70 70.000 nuovi rifugiati siriani potrebbero raggiungere la frontiera turca se l'offensiva di Assad e della Russia nell'area di Aleppo proseguirà all'intensità attuale. Davutoglu ha promesso di non chiudere le porte ai rifugiati, come ha chiesto all'Agenzia ONU per i rifugiati, che saranno accolti in modo controllato e secondo Ankara potrebbero arrivare a 1 milione quelli ammassati alla frontiera se i raid russi continueranno. Ma proprio Mosca, tramite il portavoce di Putin, ha subito replicato ad Ankara che i rapporti tra i due paesi oggi sono nelle condizioni peggiori degli ultimi decenni e ha aggiunto che questa situazione non è colpa della Russia. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci occupiamo di politica adesso, almeno per la giornata di oggi. Lasciamo un attimo in sospeso la vicenda delle unioni civili, tanto ne parleremo tra un attimo anche con le cronache da Sanremo, perché la vicenda è entrata a pie pari anche nelle vicende di Sanremo. Domani, tra l'altro, appunto, iniziano le votazioni vere e proprie, ma al di là di questo ci occupiamo ancora oggi del Movimento 5 Stelle, perché lo scontro adesso si è spostato sulla vicenda delle multe previste per chi si candida a Roma e, per così dire, tradisce il Movimento 5 Stelle, con una replica del PD che riguarda anche la famosa legge sui partiti che si promette da anni e non viene mai fatta. Sentiamo. I traditori saranno puniti. Luigi Di Maio, membro del direttorio 5 Stelle, oggi difende senza indugi la multa voluta da Gian Roberto Casaleggio come deterrente per scongiurare fughe verso altri partiti da parte dei futuri consiglieri comunali grillini di Roma. La sanzione da 150.000 euro è prevista dal decalogo che dovrà essere firmato da tutti i candidati. Non ne possiamo più di questi eletti da noi che poi passano al Partito Democratico, spiega Di Maio. Nella corsa al Campidoglio il PD sembra essere ormai diventato il bersaglio principale dei pentastellati, pronti a dare battaglia ora anche sulla nuova affittopoli della capitale, ma proprio sulla questione delle multe per i consiglieri ribelli i democratici vanno al contrattacco. Sfiorano il ridicolo è il commento del vice segretario Guerini, secondo il quale però la vicenda conferma che è ormai ineludibile l'approvazione di una nuova legge sui partiti. Capisco che i grillini si oppongono perché significa garantire trasparenza alla vita dei partiti, pluralismo e libertà di dissentire, ma è un problema che non riguarda le singole forze politiche. In ballo c'è la qualità sostanziale della nostra democrazia, spiega Guerini. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Oggi si celebra, per così dire, il Safer Internet Day, una giornata dedicata appunto alla sicurezza, soprattutto di bambini e adolescenti in rete. Sentiamo. L'impatto iniziale è quello più duro. Poi diventiamo come dei medici. Nel gergo si dice vediamo ma non guardiamo. Franco, nome di fantasia, è un agente sotto copertura della polizia postale e navigando nel web vede ad ogni click foto e video che possono diventare una bomba contro adolescenti fragili o peggio ancora merce per pedofili criminali. Immagini intime di ragazzine spiattellate online, scatti privati usati poi come arma di ricatto. Succede di continuo, è successo anche a Roma, dove una studentessa ha 3 volte tentato il suicidio dopo la pubblicazione di un video, come è stato denunciato dai PM in Commissione Giustizia, presieduta da Donatella Ferranti, PD, che sta mettendo a punto un DDL contro il cyberbullismo. 2 minorenni che hanno avuto un rapporto sessuale e uno dei due poi ha messo il video in circolazione. Da Roma a Pordenone, le vittime della violenza di adolescenti su altri adolescenti, violenza amplificata soprattutto dalla condivisione sui social network, si allunga di continuo. Dalla pornografia si passa alla denigrazione collettiva, soprattutto sui gruppi su WhatsApp, ed è questo che terrorizza le mamme come questa. Sono terrorizzata, e per quanto uno possa controllare il telefonino dei figli, certe dinamiche avvengono fuori dalla famiglia. Dagli agenti ai politici, tutti ripetono che la lotta al cyberbullismo non può che passare innanzitutto attraverso una collaborazione delle scuole all'uso di strumenti che con un solo click possono fare tanto male. Raffaella Calandra, Radio 24. Il Sole 24 Ore. E a questo tema è dedicata tra l'altro una puntata di Storiace firmata dalla nostra Raffaella Calandra, una puntata andata in onda nei giorni scorsi che potete ritrovare sul nostro sito www.radio24.it. Siamo alle cronache dal Festival di Sanremo, che in queste ore tengono conto anche dell'arrivo di Elton John e relative polemiche. Non si sa se suo marito sarà insieme a lui sul palco del festival. Siamo alla vigilia del voto sulle unioni civili e quindi in Italia ovviamente la discussione monta anche su questo. Marta Cagnola, ciao, buongiorno. Ciao Ciao Simone, buongiorno a tutti dall'Ariston Ruffolo, ormai lo sapete, la sala stampa sul tetto del teatro Ariston. Partiamo allora con Elton John. Allora, Elton John dovrebbe esibirsi attorno alle 23, non c'è l'ansia di dove alloggia, dove sta, perché lui è a casa sua, a Nizza. Non si sa se arriverà con David, il marito. Sicuramente Carlo Conti poco fa in conferenza stampa ha detto che semplicemente, se a tutti i cantanti chiedo cose sulla vita privata non ne usciamo più, lui è qui per cantare tre canzoni, certo se vuole dire qualcosa. Quindi Carlo Conti intelligentemente alimenta un po' così lievemente la polemica e soprattutto la curiosità sull'arrivo di Elton John. Si parte con 10 minuti di montaggio serratissimo con tutti i ritornelli che hanno vinto Sanremo dal 51 in poi. I 10 campioni saranno Fragola, Noemi, Dear Jack, Caccamo Coniurato, Stadio, Arisa, il nostro Enrico Ruggeri, Blu Vertigo, Rocco Hunt e Irene Fornaciari. Questo l'ordine. Abbiamo detto Elton John alle 23, invece Laura Pausini, l'altra super ospite, salirà sul palco intorno alle 22. Per chi volesse sapere a che ora andrà a dormire, allora dovrebbe finire tra mezzanotte e mezza e mezzanotte e 40, ma quest'anno torna dopo Festival. 70 minuti di dopo Festival, ci saremo anche io e Enrico Ruggeri, quindi Radio 24 è serena, e quindi si va a dormire. Benissimo. Tardi ma non tardissimo. Vabbè, quindi il dopo Festival di questa sera è assolutamente imperdibile, direi. Ovviamente. Da non perdere, ovviamente. Bene, allora Marta, sarà un piacere vederti questa sera, dunque insieme al nostro Enrico Ruggeri, dicevi. Ebbene, noi abbiamo il nostro diario quotidiano di Enrico Ruggeri proprio dal Festival, sentiamo cosa ci racconta oggi. Il Sanremo di Ruggeri. Una giornata che è durata 48 ore per tutti i cantanti. Per quanto mi riguarda è iniziata con un pranzo paragonabile all'incontro di Teano. Alla stessa tavolata c'erano sia i Dear Jack che Alessio Bernabei, quindi posso dire di aver assistito a un incontro epocale. Dopodiché sono iniziate le prove, 5 ore di prove serrate in cui i cantanti divisi per le due serate hanno provato le loro canzoni, poi c'è stata la lunga trafila del red carpet, quindi tutti i cantanti sono stati convogliati in un luogo affinché potessero passare a uso e consumo della folla, dei fotografi e delle telecamere della RAI. Tutto questo naturalmente intervallato da una serie di interviste, promozioni e campagne elettorali che tutti i partecipanti al festival hanno fatto. Quindi, stranamente, pur essendo ancora una giornata non di gara, in realtà questo lunedì è stato impegnativo per tutti, quindi il festival non è ancora cominciato, eppure ci sono già i primi crolli per stanchezza fisica e nervosa. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi abbiamo tanti argomenti di cui parlare, a partire dalla morte di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto. Vogliamo parlare oggi degli effetti che può avere nei nostri rapporti appunto con l'Egitto e come si dovrà muovere la diplomazia italiana nei prossimi giorni. Torneremo a parlare di mercati e siamo sulle tracce di un o una sindacalista dell'ATAC che ci parli della vicenda della quale vi abbiamo accennato nei titoli. Lo ricorderete, il dipendente, l'autista dell'ATAC che era stato in malattia nel 2014 e contemporaneamente era stato ripreso mentre cantava una canzone di Califano in un club di Zagarolo, ebbene oggi è stato reintegrato dal giudice e vogliamo parlarne proprio con un sindacalista per capire come sia possibile. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Sono in netto peggioramento negli ultimi minuti le borse, il FTSE MIB cede il 2,3%, il FTSE All Share il 2,21%, Parigi perde il 2,15%, Francoforte 1,5%, pesano le vendite degli hedge fund e le preoccupazioni per il rischio di una nuova recessione, anche nella giornata di oggi, tra l'altro molto volatile. Lo scontro frontale tra due treni in Baviera, le vittime sono 9, decine i feriti, di cui alcuni una quindicina in condizioni gravissime. La Farnesina in queste ore sta verificando l'eventuale presenza di italiani. È iniziata la conferenza stampa delle autorità, tra poco ve ne riferiremo. Sui rifugiati, la Turchia dice non chiuderemo le porte, ma la frontiera è ancora sbarrata in realtà, con 70.000 persone in fuga dai combattimenti che premono appunto alla frontiera. Intanto a Damasco un attentato uccide almeno 8 persone. E siamo di nuovo a parlare di mercati e lo facciamo insieme a Moria Longo del Sole 24 Ore. Moria, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, come dicevo, le cose stanno di nuovo peggiorando in una giornata caratterizzata da innumerevoli cambi di rotta, perché la borsa aveva aperto abbastanza bene, poi ha virato al ribasso, è arrivato a perdere oltre il 3%, poi intorno ai 10, 10 e mezza più o meno è tornata in positivo e poi è ricominciato a scendere anche sulla scorta dell'andamento dei futures sugli indici americani, che sono negativi. Comunque 2,5% in questo momento il calo del FTSE MIB, 2,4% il calo del FTSE All Share. In parte abbiamo accennato alle cause. Moria, quello che vorremmo capire da te adesso è quanto tutto questo è attribuibile a ragioni di puro mercato, insomma, grossi fondi, anche fondi speculativi che hanno posizioni particolari in particolare sui titoli europei, e quanto effettivamente al rischio di una nuova recessione globale della quale si parla in queste ore. Ma le due cose si intersecano ovviamente l'una dentro l'altra. I rischi globali ci sono, diciamo da sempre, la Cina, gli emergenti, la recessione globale, il rischio di rallentamento globale e così via, le banche. Su questi rischi però si instaurano una serie di fenomeni tipici di borsa, come stop loss, cioè le vendite forzate. Moria, ti chiedo solo una cortesia di tenere forse la bocca lievemente più vicina alla cornetta, perché alla parte del microfono del cellulare, perché ti sentiamo un po' male, vai. Ok, chiedo scusa. Dico che ai fenomeni globali che sono sotto gli occhi di tutti si instaurano, si inseriscono, si sommano alcuni fenomeni tipici borsistici che poi esasperano i crolli, per esempio le vendite forzate dei fondi sovrani dei paesi arabi, che siccome il petrolio è basso sono costretti a vendere azioni anche in Europa per fare cassa e rimborsare e chiudere i buchi di bilancio nei propri paesi. Ci sono gli stop loss, c'è la speculazione, ci sono le vendite allo scoperto. Ci sono tutta una serie di fenomeni ovviamente che si sommano a problemi che però sono reali. Quindi un misto sostanzialmente delle due cose, perché molti tendono ad attribuire questa ultima fase soprattutto a ragioni di mercato, appunto, a spostamenti per quanto riguarda soprattutto gli hedge fund. Allora sì, ci sono sicuramente gli hedge fund che vanno corti, che vanno al ribasso. Ma ci sono anche delle vendite forzate, perché non dimentichiamo che molti soggetti sono costretti a vendere, a liquidare titoli che hanno comprato quando hanno loro stessi dei problemi. Allora, per esempio, uno dei motivi per cui il Bund, cioè il titolo di Stato tedesco, sta scendendo moltissimo come rendimento, soprattutto il Bund trentennale, è probabilmente attribuibile alle assicurazioni tedesche, le quali, se il Bund scende, sono costrette siccome hanno delle polizze con tassi garantiti, quindi loro non possono investire in titoli che sono troppo bassi, sono costretti da un lato a coprirsi sul mercato dei derivati. Chi copre le assicurazioni sul mercato dei derivati costretto a sua volta a vendere Bund. Questo per dire cosa? Che c'è un circolo vizioso che quando il mercato crolla costringe molti soggetti, molti operatori del mercato a comportarsi non come vorrebbero, ma come sono costretti a fare per ragioni proprio di bilancio o varie esigenze. Quindi questo va ad esasperare i fenomeni dei movimenti di borsa, per questo che sta questa altissima volatilità, quando in realtà i fenomeni che li causano, cioè i motivi economici che li causano, ci sono. Non sono così gravi come il crollo delle borse potrebbe lasciare intendere. E che quindi vengono amplificati da questi meccanismi che sono di fatto dei meccanismi semiautomatici. Ti ringrazio, grazie a Moria Longo del Sole 24 Ore. Saluto, grazie a te. Saluto Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano, al quale strapperemo pochi minuti perché tra l'altro tra poco ha lezione. Professor Parsi, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno. Per parlare con lei della vicenda di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso, insomma, possiamo dirlo sostanzialmente, al Cairo. La notizia di oggi è che sono 4.600 gli accademici che hanno aderito alla lettera promossa in Gran Bretagna per chiedere giustizia e verità sulla vicenda. Quello che vorremmo affrontare con lei, professor Parsi, è l'impatto che tutto questo ha sulle relazioni diplomatiche nostre con l'Egitto, un partner evidentemente fondamentale non solo da un punto di vista economico e finanziario, insomma molto si è parlato dei rapporti con l'ENI in queste ore, ma anche dal punto di vista evidentemente della lotta al terrorismo. Dall'altra parte un regime evidentemente illiberale. Secondo lei come procederanno i nostri diplomatici, di come procederà la nostra diplomazia nei prossimi giorni e come dovrebbe invece procedere. Ma appunto, diciamo, muoviamoci su come dovrebbe, e auspicando e anche pensando che poi alla fine si muoveranno in questo senso. Da un lato, ribadendo con fermezza in sede pubblica che l'Italia attende le spiegazioni che siano esaustive, che siano convincenti, non la prima favoletta che viene in mente a un portavoce. Dall'altra parte, a livello, diciamo così, più riservato, facendo presente all'ufficio della Presidenza della Repubblica Egiziana che evidentemente chi ha fatto questo intendeva colpire o minare il rapporto con il Presidente stesso. Il regime egiziano è un regime autoritario, senza dubbio, ma non aveva nessun interesse a far scomparire e poi ricomparire il cadavere di un cittadino straniero torturato. Quindi qualcuno ha, diciamo così, agito appositamente per colpire Sisi, e su questo noi dovremmo fare leva per fargli capire che abbiamo un interesse comune a trovare la verità. Quindi lei ritiene, professore, che anche visto come sono successe le cose, che appunto ci fosse qualcuno che avesse interesse a minare il nostro rapporto appunto con l'Egitto? E chi potrebbe avere un interesse di questo genere? Qualcuno interno all'Egitto stesso o anche eventualmente altri paesi? In principio penso più che altro a qualcuno interno all'Egitto, sia qualcuno interno al regime stesso che però magari miri a sostituire Sisi con qualche altro personaggio, abbiamo già visto altre volte purtroppo, sia altre forze politiche estremiste che possono aver infiltrato a un livello abbastanza importante un apparato di sicurezza. Non è credibile che sia stato un errore e non è credibile neanche che la cellula di torturatori abbia assunto autonomamente l'iniziativa di torturare, uccidere e poi liberarsi del cadavere di uno straniero. Tutto questo c'è qualcosa di incoerente in tutto questo, che fa propendere per un regolamento di conti interno al regime nei confronti di Sisi, oppure qualcuno che sta a infiltrare le strutture dei servizi di sicurezza egiziani. La ringrazio, grazie a Vittorio Emanuele Parsi e buona lezione, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano. Noi adesso ci fermiamo, ritorniamo a fare un punto tra poco su come stanno andando i mercati e poi nella seconda parte della trasmissione andremo a fare un punto invece su quello che è successo in Baviera, lo scontro tra due treni è in corso, la conferenza stampa, vedremo di farci aggiornare proprio da Berlino su quello che sta succedendo, su quello che stanno dicendo e su quali sono i primi dettagli, e poi appunto la vicenda dell'autista dell'ATAC reintegrato dopo che, mentre era in malattia, andava a cantare canzoni nei locali. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri titoli a partire dalle borse, dalle quali parleremo tra un attimo e oggi sono molto volatili, il ribasso in questo momento è del 2,3% per il FTSE MIB e del 2,21% per il FTSE Share, vanno un po' meglio le altre borse europee, Francoforte cede comunque l'1,03%, Parigi l'1,87%, Londra lo 0,78%. Lo scontro frontale tra i due treni in Baviera, le vittime sono 9, decine i feriti, una quindicina sono gravissimi, la Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani. Per i rifugiati la Turchia promette non chiuderemo le porte, ma la frontiera è ancora chiusa. Intanto a Damasco un attentato uccide almeno 8 persone. Sanremo inizia questa sera il festival e si apre con un omaggio a tutti i vincitori e con la polemica per la presenza di Elton John alla vigilia del voto sulle unioni civili. La borsa. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Adesso ci occupiamo di una vicenda della quale in realtà ci eravamo già occupati qualche tempo fa, quando esplodero tutti gli scandali anche che riguardavano gli sprechi romani, ed è la vicenda di un dipendente dell'ATAC, un autista dell'ATAC che era stato licenziato. Perché era stato licenziato? Perché con un certificato medico gli furono prescritti 10 giorni di riposo assoluto tra il 10 e il 19 aprile, ma la sera del 12 aprile apparve su un palco di un locale di Zagarolo a cantare una canzone di Franco Califano. Ebbene, che cosa è successo? Che il GUP sostanzialmente lo ha assolto. Michela Quintavalle è presidente del sindacato Cambiamenti M410 dell'ATAC, appunto. Quintavalle, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ma che ci dice di questa sentenza? Allora, guardate veramente, perché qui stiamo rasentando il ridicolo e sconfinando nell'anomalo. A parte il fatto che non era stato licenziato nessuno, e ad oggi c'è in corso una sentenza da parte della magistratura, non è stato condannato, quindi non c'è nessuna condanna. Quella persona aveva una diagnosi precisa, compatibile con quello che erano i suoi giorni di malattia, di conseguenza rispettava le fasce orarie come è di legge. Ora, se verrà dimostrato che era colpevole, è giusto che paghi. Se invece, comunque, come è venuto fuori fino adesso, per cui non è stato nemmeno condannato dal GUP, io credo che tutta questa attenzione mediatica sia di però lei capisce, però mi scusi Quintavalle, sì. lei capisce che l'attenzione mediatica, insomma, non dico che è dovuta, ma quasi, insomma, abbiamo una persona che ha un certificato medico, no? Non può andare al lavoro e nei giorni nei quali ha questo certificato medico. Aspetti. Io studio medicina e voglio essere specializzata in psichiatria, ma se una persona ha delle crisi d'ansia, se una persona ha delle problematiche, magari uscire di casa lo favorisce. Ora, io la diagnosi è privacy, quindi non posso andare nel dettaglio, ma non pensate che invece l'attenzione dovrebbe essere volta, per quanto riguarda ATAC, al caos che sta succedendo ai vertici, o per quanto riguarda altre realtà? Ma per carità, guardi Quintavalle, mi scusi, ci occupiamo, di questo ci occupiamo sempre e lo sa benissimo, siamo i primi a denunciare gli sprechi che avvengono nell'azienda anche da parte dei vertici. Certo, ammetterà che è un caso particolare, insomma, no? Se quella è una persona che ha sbagliato, deve pagare, ma perché voi, non parlo di voi, perché veramente questa persona si è vista... Noi come giornalisti. Giornalisti, insomma, adesso non abbiamo fatto in tempo a scaricarlo, però abbiamo anche il video di lui che canta Amore, Amore, Amore di Califano su un palco di Zagarolo. Capisce che, insomma, un po' di perplessità la suscita. Insomma, un conto è distrarsi, un conto è andare a cantare su un palco. Non è innocente fino a che non viene dimostrato il contrario. Ripeto, se sulla diagnosi medica c'è scritto crisi da stress, iperventilazione, sudorazione, sto dicendo per dire, io non ho letto la diagnosi, e quella persona, finite le ore di in cui deve essere reperibile a casa, la sera si va a divertire, perché non è che gli è stato dato un compenso, abbiamo l'assegno che ha ricevuto, magari salire su un palco è abbastanza stressante, tutto sommato, no? Ma non lo so, dipende dalle persone, magari anche divertente. Quello che io ripeto, se quella è una persona che ha torto, per me deve pagare. Ad oggi nessuno ha dimostrato che ha torto, proprio il caso non sussiste, è stato detto dal giudice. Quindi perché? Ma è un vostro iscritto, tra l'altro, Quintavalle? È un vostro iscritto? Io questi dettagli non li so, non lo so con chi è iscritto, io ho sempre difeso tutti, CGL, CISL, UIL, io difendo il lavoratore, a me non piace l'accanimento che c'è nei confronti degli autoferrotranvieri, perché così proprio si mette la categoria contro la cittadinanza, per cui il cittadino attacca, perché noi siamo i nulla facenti, perché questa cosa che cosa significa? Vedi? Ma non stiamo dicendo che siete nulla facenti, diciamo che se la decisione del GUP è questa, è una decisione, ammetterà, piuttosto curiosa, a fronte di chiunque, nel senso che chi lavora in un'azienda privata, Quintavalle, per una roba di questo genere viene licenziato, e non è che ci sono molte storie da dirsi, insomma. Ma lei sta scherzando veramente? Ma le ripeto, ma come fa a dire una cosa del genere senza sapere qual era la diagnosi? È come che uno dice mi sono rotto una gamba, come quando accadde a me 2 anni fa, non potevo andare, 2004, a lavorare non ci potevo andare, ma io dopo le 7 di sera facevo tutta la mia vita privata. Okay. Mi sembra veramente un accanimento. Va bene, questa è la vostra posizione. Io intanto la ringrazio, Michela Quintavalle, perché vorrei dare spazio, e le rubo veramente solo un minuto, a Tonia Mastrobuoni, che è una collega giornalista di Repubblica, che è la corrispondente da Berlino e che abbiamo strappato alla conferenza stampa delle autorità sull'incidente avvenuto questa mattina in Baviera. Tonia, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Allora, che quadro sta emergendo? al di là insomma del numero di vittime, è emerso qualcosa sulle cause? Si è capito qualcosa di più? No, assolutamente no. Hanno recuperato 2 scatole nere su 3. La terza, dice il ministro dei trasporti federale, che è lì e ha fatto appena la conferenza stampa, sarà recuperata in giornata. E fino ad allora è inutile fare speculazioni di qualsiasi tipo. Sulla dinamica, anche Dobrindt è stato molto chiaro, purtroppo, perché ha descritto sostanzialmente uno scontro tra treni alla massima velocità, cioè alle 6.50 questi 2 treni si sono scontrati frontalmente, e il problema è stato che si sono scontrati in curva, quindi nessuno dei due in un bosco, quindi nessuno dei due ha avuto la possibilità di vedere l'altro. Ecco perché è così drammatico, perché quindi lo scontro è avvenuto a tutta velocità e Dobrindt ha descritto una scena terribile di appunto un treno che si è letteralmente mangiato l'altro treno, cioè è entrato dentro l'altro treno e ha lacerato tutta la cabina, eccetera. Per ora il bilancio è di 9 morti, 2 dispersi, e ci sarebbero diciamo 2 notizie buone in questo quadro tragico, cioè buone. Ci sono meno feriti gravi di quanto non si pensi. Perché noi eravamo rimasti a 15, Tonia, che gli aggiornamenti cosa ci dicono? Esatto, sono una quindicina. Sono una decina molto gravi e 5-6 meno gravi. Questo l'ha detto la polizia a una televisione tedesca, la N24. Secondo me l'altra cosa importantissima che hanno sottolineato più volte la polizia, c'erano adesso in Baviera, ci sono vacanze di carnevale, di solito questi treni sono pieni di bambini che vanno a scuola tra un paese e l'altro. Per fortuna, tra virgolette, stamattina su questi treni c'erano solo pendolari. Sul treno ci sono 150 posti e questi treni raggiungono in genere velocità di 160 km/h. Le cose da chiarire sono ancora a quanto andavano questi treni, perché ripeto, se è vero quello che ha detto Dobrindt, non hanno frenato. Questo è stato il dramma, non hanno frenato, cioè si sono scontrati a tutta velocità in curva. Tonia, io ti ringrazio per questo quadro che ci hai dato e ti restituiamo appunto al tuo lavoro e alla conferenza stampa e al tuo lavoro normale, appunto, che per il quotidiano La Repubblica. Noi adesso andiamo a chiudere, ma prima di chiudere le facciamo un po' rapide. Ci occupiamo del processo di Mafia Capitale, a questo è dedicata l'inchiesta di Daniele Biacchessi di oggi, poi andiamo direttamente al traffico. Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti. Doveva essere il processo più atteso di questi anni, quello che dal novembre 2015 viene celebrato a Roma. Ma contro i boss di Mafia Capitale. Invece è sparito dalle cronache. Eppure di cose importanti ne accadono in questi giorni nell'aula del carcere romano di Rebibbia. L'impianto accusatorio della Procura di Roma guidata da Pignatone sembra reggere alle prove giudiziarie. Sono sfilati in queste settimane gli ufficiali del ROS che hanno condotto per mesi le indagini. Nella sua ringa difensiva Giosuè Naso, legale di Massimo Carminati, ha ipotizzato una sorta di alleanza tra il procuratore Giuseppe Pignatone e il giornalista dell'Espresso Lirio Abbate, a cui però si sono associati molti avvocati. Luca Gramazio, ex consigliere di centrodestra in Campidoglio, poi alla Regione Lazio, ha negato ogni addebito, affermando che i soggetti indicati a Salvatore Buzzi erano solo dei disoccupati e non vi era alcuna richiesta di assunzione o voto di scambio. L'ex braccio destro di Alemanno Franco Panzeroni ha confermato che l'ex sindaco ha preso 200.000 euro cash da Buzzi, e da Mafia Capitale spuntano i forti legami con il delitto di Silvio Fanella, cassiere di Gennaro Mockbel. Di tanti spunti inquietanti è pieno dunque quel processo che svela quella zona grigia tra politica, affari, criminalità organizzata e apparati dello Stato. Forse per questo motivo è passato in secondo piano.